Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Corrispondeva al vero quel che la gente diceva. Non aveva molto seguito di persone, 20 al massimo, 30, tutti uomini. Stavano in gruppo presso la riva del fiume a cantare preghiere e lui ogni tanto ne battezzava qualcuno invocando l'Altissimo, pronunciando parole che non riuscivo a capire. Nemmeno lui aveva braccio da reggere una spada contro Roma, né la voce, da quel poco che si poteva udire, sembrava possedere il soffio dell'Eterno. Ma allo sguardo sì, allucinato insieme intenso, aveva qualcosa che partiva da più lontano di lui e arrivava più lontano di noi. Esprimeva una universale richiesta d'aiuto, non per lui stesso, che chiedeva essendo soltanto tramite, ma per un compito più alto nel quale la parte assegnatagli era ormai interamente assolta, o quasi, poiché quanto a lui, egli aveva già la sua morte addosso. Non la morte per solitudine e disperazione che i dubbi profeti andavano a cercarsi nei deserti di pietra, ma una morte di martirio, di sangue. Gliela vidi quando arrivai vicino. Un segno rosso intorno al collo e rabbrividii per lui e anche per me, poiché anch'io avevo un segno intorno al collo, non così rosso, tuttavia né così imminente. Il mio talvolta s'attenuava fino a sparire, forse significando un destino che poteva anche cambiare. Per il suo non ci sarebbero stati cambiamenti. Ciò che faceva era pieno di fede, o almeno di suggestione. Rispecchiava ad un tempo ineluttabilità e convincimento. Ero ancora lì quando arrivò, da Gerusalemme, una deputazione di sacerdoti e farisei inviati dal Sinedrio per un'inchiesta, cioè vedere se per caso il seguito di quell'uomo e le sue parole e azioni fossero tali da impensierire il potere costituito, vale a dire in primo luogo il procuratore romano Ponzio Pilato. L'arrivo di quei deputati fu un po' ridicolo. Essi stessi si sentivano fuori posto, tanto erano consapevoli della sproporzione tra l'esiguità dei fatti che si trovavano davanti e la loro propria autorità e cultura. Tuttavia, già che c'era, l'inchiesta la fecero e, avvicinatisi al supposto profeta che aveva fatto fare loro quella bella camminata da Gerusalemme al Giordano, gli chiesero, tra commiserazione e insolenza, «Chi sei?» Lui però, che leggeva nei loro animi, come nel fondo dell'acqua chiara, rispose pianamente, «Io non sono l'unto». Alcuni di quegli sciocchi si misero a ridere, ma altri, più sciocchi ancora, insistettero nell'interrogarlo. Allora chi era, Elia o un profeta? Con quale autorità battezzava? Come mai testimoniava e predicava? Lui rispose essere soltanto la voce di uno che gridava nel deserto per ammonire che, essendo prossimo l'avvento dell'atteso, bisognava prepararsi, cioè raddrizzarlo nella via con penitenza e purezza di vita, e aggiunse che lui non commetteva peccato battezzando con acqua, ma, aggiunse ancora, e profeticamente girò sugli astanti lo sguardo che conteneva il dizio dell'Eterno, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Proprio così disse, con voce fattasi inaspettatamente vibrante, mentre girava su di noi, su di me, il suo sguardo, dov'era indizio dell'Eterno. E io, Con quell'attimo di sguardo addosso, un attimo per me solo, egli non intendeva trascurarmi, sentii uno scuotimento dell'animo, desiderio e repulsione, trepidazione ed esultanza, abissale presentimento. Aspettavo che mi si rivelasse qualcosa di indicibile, forse una misteriosa designazione, ma il suo sguardo allucinato, folto di presagi, era già andato oltre, lasciandomi in una profonda, paurosa tentazione. E se l'unto, veniente, forse venuto, non fosse ancora del tutto realizzato nella sua potenza e santità, ma dovesse gradatamente formarsi divenendo? Se, per dire, egli già fosse, ma dovesse acquistare conoscenza del proprio essere per segni e suggerimenti, tremiti e commozioni e concorso d'altri emissari dell'Eterno, come stava accadendo a me? Abissi sono le sentenze di Adonai, impenetrabile il suo agire. Preso da febbre, mi staccai in fretta da lì. Salii dalla valle verso oriente, sulle aride colline cosparse di roveti che avrebbero potuto anche ardere. Era la potenza di Dio o quella di Belzebub, nemico di Dio, che mi aveva infiammato sotto lo sguardo del battezzatore? Elezione o infernale orgoglio? Tutta la notte, in ginocchio, interrogai l'Eterno. Tutta la notte, o eterno mio Dio, soffocata l'impazienza ma non la febbre, ti interrogai, prosternato, sgomento, anelante. Stendi su quelli che t'amano la tua grazia e sui puri la tua bontà. Io non sono impuro, o Signore, e ti amo. Sei la salvezza dei credenti e io credo. Sei l'uno, il nome. Sopra di me, nella distesa dei cieli, le stelle da te create nel quarto giorno presiedono alla notte, sconfinata immensità, e sei tu. È dentro di me l'animo mio, altra sconfinata immensità, dato che mi volesti a tua immagine. E se sono tanto dibattuto dentro l'animo mio, anche questo è a tua somiglianza, perché in te, Adonai, ci sono predilezioni e ripugnanze, abbandoni e recuperi, pazienza e insofferenza. La tua imperscrutabilità è luce e mistero, smarrimento e meta, ma sempre santità. Mentre il mio spirito è tortuosità, è voragine e umana sofferenza. Ma chi, se non tu, mi ha messo in cuore così smisurato affanno? Da chi, se non da te, aveva autorità lo sguardo del battezzatore? Allora rispondi, eterno mio Dio. Sono io, il Messia, il re promesso, l'unto? Se non mi dai un segno, come posso esserne certo? Eterno degli eserciti, tutto il mio desiderio ti sta davanti. Il mio animo è ardito e fedele. Il mio braccio sa reggere la spada di Davide, e su un campo di vittoria posso offrirti la mia morte. Ma dimmi, sono io l'atteso? Non lasciarmi, Signore, non starmi lontano, Dio mio. Aiutami presto, Signore mio, salvezza mia. Tua è la potenza. La tua voce penetra nel deserto, colma le valli, fa tremare le acque, scuote dalle fondamenta il monte di Sion. O la tua voce è silenzio. Stelle sorgevano dall'orlo dei monti, salivano su di me mentre se ne elevavano altre, e poi fu mattina. La luce dell'Oriente cancellò l'interminabile notte durante la quale ero stato tanto a lungo sedotto dal perché del mio essere, del mio esistere. L'Eterno non aveva dato risposta alle mie domande, ma la sua voce, potendo essere silenzio, per altre vie dovevo chiarire. Sarei sceso al fiume. Il primo mattino attendeva con purezza le ore che sarebbero venute. Il sole rendeva felici le digradanti colline. Il fondo della valle era appena velato da una foschia luminosa che presto si sarebbe distolta. Ogni cosa cantava gloria all'Eterno nella terra data a noi, popolo scelto e benedetto, nel quale Egli si sarebbe manifestato come promesso, ed era tempo, troppo grande essendo diventata nella dolorosa incertezza l'attesa dell'atteso. La notte passata in ginocchio a interrogare il silenzio non aveva fiaccato il mio spirito né mitigato la mia febbre. Ora, giungendo al fiume, al battezzatore che aveva negli occhi indizio dell'Eterno, avrei chiesto, con possibile umiltà e senza impazienza: dimmi, sono io il Messia, l'atteso, l'unto del Signore? Lui non era un'immensità di silenzio, e io qualsiasi sua risposta avrei accolto, pronto ad assumere responsabilità e comando, ma anche ad avviarmi verso il deserto di solitudine e pietre. Molte persone scendevano al fiume in quel chiaro mattino. Mi trovai a camminare non lontano da uno contornato da un piccolo gruppo di seguaci, 10 o al massimo 12, che procedeva raccolto o semplicemente attento a non incespicare sui sassi e le asperità del largo sentiero. Rivolgendogli la parola, coloro che gli stavano vicino lo chiamavano Rabbi, e lui rispondeva a voce molto bassa, seppur rispondeva. Era bello. Lui, il più bello tra i figli degli uomini, e alto di persona, ma esile. Nemmeno il suo braccio era tale da impensierire quelli della commissione inquirente, se per caso si fossero trovati ancora in giro, ma se n'erano andati, pareva. Mi mischiai al suo seguito. Povera gente, dal parlare grossolano, e insieme andammo verso il battezzatore. Colui stava sulla riva, anche lui contornato da non più di una dozzina di persone, pronto a riprendere la sua giornaliera incombenza, e non aveva l'aria di trovarsi in attesa di qualcosa di straordinario, ma ecco che, scorgendoci scendere, fu preso da agitazione e con voce concitata e altissima, ben diversa da quella che era riuscito a mettere fuori il giorno prima, si mise a gridare: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Era un parlare esaltato, che sicuramente bisognava di interpretazione. Che significava agnello di Dio? Perché non pastore piuttosto? E poi togliere il peccato? Ma la vana attesa di risposte aveva scavato nell'animo mio un'ansietà che quelle parole, per quanto oscure, avrebbero potuto di colpo placare, purché fossero state rivolte a me. Ma fu subito chiaro improvvisa immobilità e celeste presenza tutto intorno a lui, che erano state dette per quello che i seguaci chiamavano rabbi. Avrei dovuto esultare, dato che andavo di terra in terra in cerca appunto d'un rabbi, e invece mi sentivo amaro, non tanto per rivalità o delusione, quanto per l'avvertimento d'essere stato sfiorato dallo spirito del maligno nella mia vanagloria. Intanto il battezzatore andava spiegando al gruppetto dei suoi propri seguaci che colui che era arrivato era proprio quello del quale lui aveva detto che dopo di sé sarebbe venuto uno che era maggiore di se stesso perché era prima di se stesso. Sempre più scombinato il suo dire, né la voce, per quanto si ingegnasse, aveva soffio d'eterno. Tanto il rabbi che il battezzatore potevano avere circa 30 anni, la mia età, e nessuno al vederli avrebbe potuto dire chi fosse prima o dopo, sempre che si parlasse di anni e di mesi e non di cose nascoste. Comunque il rabbi, non visibilmente toccato dall'entusiastica accoglienza, scese al fiume, vi si immerse fino al ventre e il battezzatore, con le mani a conca, raccolse dell'acqua e gliela versò sul capo, pronunciando verso l'alto le solite incomprensibili invocazioni, quando di colpo si mise a gridare come un matto: «Ho visto lo spirito scendere dal cielo in forma di colomba! Testimonio che costui è il figlio di Dio!» L'affermazione era tale da suscitare esaltazione, gloria, panico, smarrimento e terrore, comunque scalpore. Invece sui presenti non fece grande effetto, forse perché ciò era precisamente quel che la maggior parte di essi si aspettavano, oppure anche a causa dell'abbondanza di sedicenti figli di Dio che a quel tempo peregrinavano per la terra promessa e data, ci avevano fatto un po' l'abitudine. Ad ogni modo, io che nel profondo continuavo a rimuginare il mio disinganno, sapevo che nessuna colomba era scesa dal cielo, e con dolore mi stava nascendo il sospetto più amaro della mia amarezza che tra i due ci fosse un'intesa. Ma l'evidenza era contro di ciò. Il battezzatore, che aveva in avversione le donne, che digiunava e non beveva vino, che aveva come vestito l'unico, presumibilmente, un'ispida coperta di pelo di cammello con un legaccio di pelle alla vita, che aveva in giro al collo quel segno di cui doveva pur essere consapevole, che non era francamente di bell'aspetto o di apprezzabile vigoria, lui, insomma, non poteva avere su questa terra interessi tali da giustificare l'ipotesi che fosse un imbroglione. Bisognava per forza proporsi altre soluzioni. M'ero avvicinato tanto da poter scorgere bene in volto quel rabbi e vidi che il suo sguardo, che mai posò su di me, aveva il potere di sottomettere. Mi trovai a pensare, essendo in grandissima emozione e confusione, che sarei morto per lui. Ciò che poi accadde, se me l'avesse chiesto, per combattere contro Roma o qualsiasi altra ragione, aveva questo potere, che senz'altro gli veniva dall'alto, e pertanto era molto probabile che egli fosse in grado di far gridare che colombe scendevano dal cielo anche quando effettivamente di colombe non s'era vista nemmeno l'ombra. Invero la storia, il nuovo libro, dice che qualche tempo dopo, trovandosi il battezzatore in carcere, il segno intorno al suo collo si faceva di giorno in giorno più rosso, sicché non era concesso coltivare grandi speranze o timori sulla sua sorte, e giungendogli anche là dentro notizia delle mirabili opere di quel rabbi che, forse in impeto di condiscendenza, egli stesso aveva solennemente proclamato essere figlio di Dio, gli aveva mandato a chiedere per mezzo di alcuni suoi fedeli: «Sei tu il veniente? O dobbiamo aspettare qualcun altro?» Questa era, da parte del battezzatore, una bella manifestazione di perplessità e insieme, tuttavia, di ottimismo, se pensava, nella sua condizione, di avere ancora tempo per aspettare. In quell'occasione il rabbi, agli interrogati, aveva risposto secco che egli i suoi straordinari prodigi li compiva davvero e aveva aggiunto: «Beati coloro che non vacillano nella fede a motivo della mia persona». Di lì a pochi giorni, all'austero e vacillante battezzatore tagliarono la testa, per capriccio di re, pare, o di regina. Ma colui che aveva mandato così severa risposta ebbe lui stesso il suo penare. Si chiamava Gesù ed era di Nazareth, di Galilea. Derivavi da Nazareth, e ciò, secondo il modo di pensare allora, non era proprio una fortuna. Si diceva infatti che quel remoto villaggio, pur essendo in tutto simile ad altri remoti villaggi della terra di Israele, avesse prerogativa di non produrre eventi o personaggi memorabili. Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Tuttavia tu, che i seguaci chiamavano rabbi, non eri sicuramente uno sprovveduto e forse nemmeno un poco di buono. Portavi una veste quale può portarla ad esempio un artigiano e non avevi monili o ornamenti di sorta, ma ti si vedeva addosso, a te, alla tua bellezza, una qualità regale che non tutti i re possiedono. La maestà, della quale è incerto se sia cosa terrena o divina. Che sorta di vantaggio fosse per derivare da ciò in termini teologici non è a tutt'oggi del tutto chiaro, visto che le molte traversie che stavano ad aspettarci non furono, sembra, universalmente risolutive. Ma allora, in quel momento, nell'atmosfera del prodigio della colomba, che per quanto dubbio era da molti creduto, i lineamenti e l'espressione del tuo volto, lo sguardo, il gestire la voce, ti sentii che dicevi ai seguaci una cosa da niente, che infatti non è stata riportata dai biografi: «Riposatevi, riparteremo da qui nel pomeriggio». Comunicavano l'impressione d'una misura spirituale che attingesse molto al di sopra della natura umana, che pur ti era umilmente propria. Insomma, poteva anche darsi che lo spirito in te si fosse fatto carne, come poi si disse. E del resto questa è cosa che in certa misura capita a tutti. Però la misura capitata a te era, se così si può dire, smisurata. E pertanto smisurata era la forza che da te emanava. Forse Roma non era da combattersi solo con spade. E comunque talvolta i nostri avi avevano avuto la vittoria non dal loro braccio, ma dalla tua destra e dal tuo braccio, o Adonai, nostro Dio. Yeah.